Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci come vuoi. Buon sabato e bentornati ad una nuova puntata di Questa casa non è un albergo. Oggi una trasmissione da non perdere per discutere, ma soprattutto per riflettere insieme. Due grandi ospiti che sono già in linea con noi, un tema di grande attualità e come al solito accanto a me Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, noi partiamo come sempre dalla nostra rubrica Pensieri di padre. Una lettera ci ha fatto venire così l'idea di affrontare questo tema. Sentiamo. Sono un padre di due bambini di 7 e 9 anni. Non voglio parlare dei miei bambini adesso, ma degli adolescenti che diventeranno. Mi spaventa vederli crescere in un mondo che ha perso la bussola. Mi terrorizza pensare che la linea dell'orizzonte della loro vita sarà scandita dalla luce al neon della discoteca alla moda o dal ritmo travolgente dell'ultimo successo techno house. Mi sgomenta pensare che la loro adolescenza sarà uno slalom ininterrotto tra fumo, alcol, droghe e sesso promiscuo. Più di tutto mi spaventa il vuoto di cui vedo piena la vita di tanti ragazzi che ogni giorno vedo salire sulla metropolitana e i cui discorsi mi sembrano pieni di nulla. Il vuoto, appunto, il nulla. Che dite? Esagero? E come posso far sì che i miei figli non cadano nell'inganno di chi offre a loro il vuoto come unica prospettiva in cui crescere? Oggi partiremo proprio da queste domande. Molti genitori, io per prima mi chiedo, ma allora questi ragazzi a che cosa pensano? Il vuoto, che cosa stanno andando incontro? E poi ci viene anche, no, da pensare subito, ma forse sto esagerando, Alberto? Ma io penso in realtà che questa sorta di lieve pessimismo dei genitori sia molto pervasivo, al limite anche addirittura dal diventare un rischio nella relazione educativa con i figli, perché togli la dimensione della speranza e della fiducia. E oggi in linea con noi abbiamo il professor Umberto Galimberti. Buongiorno professore. Buongiorno. Lei non ha bisogno di essere presentato, ma io la presento ugualmente. Professore di psicologia dinamica presso l'Università Ca' Foscaro di Venezia e autore di un libro bellissimo, tra gli altri, L'ospite inquietante, il nichilismo e i giovani, Feltrinelli editore. E in linea con noi abbiamo un altro ospite che non ha bisogno di presentazione, basta il nome, Roberto Vecchioni. Ciao Roberto, bentornato. Ciao, ciao, grazie. Sono felice che tu sia qua in ruolo di, devo dire, a 360 gradi ti prendiamo, come cantautore, come padre, come professore. Professor Galimberti, proprio partendo dalla lettera che ci ha scritto il nostro padre, lei nel suo saggio parte da un'evidenza molto concreta. I nostri ragazzi hanno in qualche modo di fronte a loro un futuro che, contrariamente alle generazioni passate, non è più vissuto come speranza, ma come minaccia. Ci aiuta a capire com'è avvenuto questo cambio di prospettiva? Sapevo più o meno che cosa dovevo fare, perché la società era ripetitiva e quindi in qualche modo bastava guardare cosa avevano fatto i nostri padri e avevamo una traiettoria. Inoltre gli scenari di un'Italia che stava crescendo erano molto ampi rispetto a coloro che erano idonei a occupare le varie professioni e i vari uffici, e quindi il futuro era una promessa, e quando il futuro è una promessa retroagisce e mi fa impegnare. Adesso invece, tra la globalizzazione, tra l'occupazione di tutti i posti, tra l'immiserimento delle offerte sociali, professionali e lavorative, il futuro diventa indecifrabile. Quando è indecifrabile, che cosa succede? Che non agisce più come stimolo di impegno, come stimolo di messa in gioco di se stessi. E i genitori allora sono costretti a diventare contrattuali. Cioè, se sei promosso ti compro un motorino, se ti laureo nei tempi giusti ti compro la macchina, ma la contrattualità tra genitori e figli fa sì che i padri perdano autorità. A meno che, e questa è l'ipotesi peggiore, la logica del mercato non abbia invaso anche i processi educativi. E questo è quello che, no, ci viene da pensare più volte anche nel corso della nostra trasmissione, quando sentiamo i nostri genitori che intervengono. Ma Roberto, nel tuo nuovo CD di Rabbia di Stelle tu li racconti questi ragazzi, e sì, c'è un titolo proprio di una canzone dedicata a loro, Comici Spaventati Guerrieri. Sì, è il titolo di un romanzo di Benny me l'ha prestato. Bene, ha fatto bene a prestartelo. A me ha colpito. Hanno la prima metà di una canzone e l'altra metà da ritrovare. Nel DNA alcuni principi sono passati dalle generazioni che ci hanno preceduto, però a un certo punto manca un contatto, cioè è come se tu andassi all'interruttore della luce, lo spingessi e pensassi di accendere la luce, invece la luce non si accende più, cioè noi sappiamo il gesto che dobbiamo fare, però con quel gesto non otteniamo l'effetto che vogliamo ottenere, i giovani voglio dire, non ottengono l'effetto che vogliono ottenere, e questo è il problema. Hanno la prima metà, un insegnamento blando che gli viene naturale, che è naturale interno a loro, ma che non è rinforzato da una visione di mondo che può aiutarli a portare questo insegnamento fino alla pratica e all'esecuzione. In un altro modo il discorso che ha fatto Galimberti, direi che però tutto questo pessimismo della lettera, adesso solo in due minuti, è esagerato. I ragazzi non sono tutti così, quella è una parte eccezionale, sì, purtroppo serpeggerà questa malinconia del vivere, questa tristezza, questa incapacità di vedere il futuro, ma ci sono anche migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di ragazzi che hanno un altro approccio con la vita. Roberto, che cosa si è rotto? Anche oggi i ragazzi studiano, no, la letteratura come la studiavamo noi, forse con meno, io non vedo grande entusiasmo, forse noi incontravamo dei professori che ci facevano scattare un click, eravamo diversi, avevamo intorno, no, degli stimoli differenti, eppure tu che i ragazzi li frequenti, li hai visti e hai insegnato, che cosa non funziona, che cosa c'è di diverso rispetto a ieri? Ma intanto facendo sempre le proporzioni, cioè chi ci sta e chi non ci sta, beh, rispetto a ieri è passato un diluvio di tempo e un diluvio di cose nuove e soprattutto di menefreghismi, di noie, di persone che hanno raccontato bugie da tutte le parti, di speranze che sono state deluse, di bagagli del futuro che sono stati svuotati e saccheggiati ai ragazzi, e quindi loro stessi non ci credono tantissimo. Allora, mi rifaccio sempre a Galimberti. Manca anche un'altra cosa fondamentale, il concetto etico, cioè la precisazione di sapere cos'è bene e cos'è male, cioè non c'è un'axiologia, non esiste una scala di valori per i ragazzi, hanno una paura tremenda a scoprire che i valori che decidono che siano valori poi finiscano in due minuti, in tre minuti, in un attimo, hanno il tempo che li sommerge, li passa sopra, e questo perché, e sempre mi riferisco a Galimberti così capirà che sono un suo lettore accanito, oggi come oggi insegnare umanesimo è perdere tempo, perché i ragazzi non hanno una teleologia, l'umanesimo è l'unico, come dice Galimberti, che ci può portare alla fine di qualcosa, la tecnica mangia se stessa, la scienza non ha un fine, migliora solo se stessa, i ragazzi finché saranno nella scienza capiranno i mezzi e non il senso, capiranno il come e non il perché, e questo è il dramma che stanno vivendo oggi. Ma scusa, Roberto, e lo chiedo naturalmente anche al professor Galimberti e ad Alberto Pellai, vi ricordate che c'era quel programma Non è mai troppo tardi? Parlando di educazione alle emozioni e ai sentimenti, si possono recuperare? Là dove non c'è stata educazione, magari nella prima infanzia, nei primi anni, si può poi ritornare in qualche modo a recuperare il tempo perso, a colmare questo vuoto? Questa è una domanda difficilissima, anzi la risposta è difficilissima, perché ci sono anche qui casi e casi. Io ho sempre la speranza di sì, canto da una vita per tentare di dare emozioni, quello che è stato citato come educazione emozionale, emotiva, sentimentale, canto per quello, non per dare mezzi per vivere o sopravvivere, quelli si imparano lottando per la vita. E credo che si possa imparare questa cosa anche a 50, 60 anni, 70 anni, basta un niente, basta fondamentalmente l'amore, ma allora scoprire che cos'è l'amore è un altro problema mica da ridere, ci vorrebbero altre tre trasmissioni. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati pronti a riflettere su noi, genitori, sulla società, sui nostri figli. Viva i bilanci! Viva i bilanci, e oggi accendiamo proprio una serie di pensieri molto, direi molto profondi, sollecitati da un saggio di Umberto Galimberti, L'ospite inquietante, Il nichilismo e i giovani. Professor Galimberti, non è mai troppo tardi secondo lei? La macchina dell'amore è la macchina vera che ci fa conoscere le emozioni. Il problema è se sono capace di amare, oppure se l'amore lo traduco immediatamente in sesso e traduco il sesso in idraulica. E allora in questo caso è chiaro che la strada della costruzione delle emozioni è impraticabile. Il problema grosso è un altro, secondo me. I nostri ragazzini, quelli piccoli, vengono sottoposti a troppi stimoli. La scuola, la palestra, l'inglese, se sono ragazzini anche la danza, il pianoforte, tutte queste cose, a cui si aggiunge la televisione, internet e via di compagnia bella. Che succede a questo punto? Se io ho troppi stimoli, ho due chance: o vado in angoscia perché non so contenerli, oppure riduco la mia capacità di recezione, un po' come fanno i vecchi. I vecchi non è che non escono di casa perché non sanno camminare, è che hanno una limitata recezione di stimoli, uscire fuori per loro ce ne sono troppi, allora preferiscono stare nei territori abituali che sono la loro casa. Bene, se i ragazzi per eccesso di stimoli riducono la loro recezione degli stimoli, per salvarsi naturalmente, per salvarsi dall'angoscia, allora nascono con una psiche apatica. Come diceva prima bene Vecchioni, non distinguono più il bene e il male, non hanno la risonanza emotiva della differenza delle azioni, dei comportamenti, non sanno cosa è grave e cosa non è grave. Perché? Perché la psiche non elabora un bel niente, perché si è difesa da un eccesso di stimoli quando erano piccini. Alberto, il professor Galimberti ti invita a nozze, perché più volte, no, nelle nostre trasmissioni tu hai invitato a non sovrastimolare i bambini riempendo il loro tempo di tanti stimoli che poi avrebbero, no, finito col confonderli. Sì, io credo che molte di queste riflessioni hanno anche a che fare con proprio il tempo di crescere. A che cosa ci serve il tempo? Che dono è per la nostra vita il tempo? E noi abbiamo molto cresciuto i nostri figli con l'idea che il tempo serve a fare. E invece c'è proprio una fase che è quella della preadolescenza, dell'adolescenza, in cui il tempo serve anche a stare, cioè dove l'azione, prima di poter essere generata, ha bisogno di un pensiero che la fa avvenire, dove la noia è uno spazio importante che tu devi sentire, devi percepire per poi uscirne fuori. Volevo dire a Vecchioni che effettivamente una canzone del suo CD, secondo me bellissima, che è Quanto tempo hai, tu quanto tempo hai, e da proprio queste immagini, una dietro l'altra, di piccole scansioni temporali in cui avviene il significato di una vita, in fin dei conti propone questa riflessione sul tempo, e secondo me è un tema educativo fondamentale, perché in moltissimi casi i ragazzi pensano che il tempo è solo quello del qui ed ora, ha perso proprio la prospettiva del prima e del dopo. Invece il tempo ha un momento magico in cui succedono tutte le cose, ed è quel momento lì che conta, gli altri momenti sono di preparazione o di ricordo, ma è il momento magico, l'acme dell'istante particolare che ti cambia una vita. È un po' lo sliding doors, anche questo, dai, se sbagli l'entrata nella metropolitana cambia tutta la tua vita, qui ci infiltriamo in meandri metafisici che è inutile andare a cercare, però io insisto a pensare che per esempio l'amore, che è il grande salvatore, non sia da misurare in tempo ma in spazio. L'amore non è tempo, è spazio. Non lo ridurrei soltanto al fatto che dura cronologicamente un attimo o una vita, perché non è quello il problema dell'amore. Il problema dell'amore è la sua larghezza, la sua grandiosità, la sua vastità, quanto prende, quanto coglie e quanto non coglie, e quanto tu da un centro riesci a allargare le mani e toccare le cose. Ma la domanda è banale, sembra, ma questi ragazzi, anche noi, dove abbiamo? Noi parliamo di amore, però dove si impara? Chi ci dice come avvicinarci a questo amore? Anche noi, magari, come genitori, abbiamo delle difficoltà a trasmetterlo ai nostri figli, proprio perché siamo, no, un po' confusi. Alberto? Ma penso che proprio rispetto alle emozioni il processo fondamentale sia che io do valore alle emozioni che provo e che sperimento nel momento in cui ho imparato a renderle valide, e c'è proprio un processo precocissimo nella vita di un bambino dal momento in cui nasce, che è la sintonizzazione emotiva con chi si prende cura di lui. Per cui un bambino l'alfabeto delle emozioni lo impara nella relazione con la sua mamma e con il suo papà, in particolare con la sua mamma, e sono le parole della mamma che, anche se il bambino non le comprende, come perché non ha ancora le competenze, sanno però dare un significato a quello che lui sta provando e sperimentando. Io vorrei fare ascoltare ai ragazzi e ai loro genitori, a chi ci sta ascoltando, una breve poesia del libro che Roberto Vecchioni ha appena pubblicato per Frassinelli, di Sogni d'amore, che si intitola Il suo sorriso di Gerani. Sono stanco di nomi pronunciati, una sola volta, a luci spente, fatemi uscire. voglio uscire, dove una finestra mi porga il suo sorriso di gerani. Roberto, una poesia che a me è piaciuta molto e che ha veramente sbalordito Alberto Pellai, che ormai, no, me l'ha... In questi giorni di preparazione alla puntata mi continuava a dire, e poi mi raccomando, è la poesia bellissima, è bellissima, tu vedi, sai che è il futuro, mi porga il suo sorriso di Gerani. Nico, hai capito? Vuol dire che si affacciano, vuol dire... allora, insomma, io il commento l'ho già avuto da Alberto Pellai, anche se professor Galimberti, posso dirle che qualche cosa anche dentro di me si è agitato, però lasciamola commentare dal professor Galimberti. Una parola sola non fa connessione, non fa, e quindi è giusto che una parola non basti per dire amore, perché l'amore è molto verboso, l'amore è ricco di espressioni, l'amore è delirio, l'amore, diceva Freud, è una malattia che ha l'unico pregio di essere breve, è un delirio che ha l'unico pregio di essere breve, ma è fluvio di parole ed è fluvio di gesti, è fluvio di sguardi. E allora un gesto a cui si riduce oggi, o addirittura l'ecstasy per provare una qualche emozione, ci dice proprio l'impoverimento a cui siamo arrivati. Non è la condizione di tutti i giovani, ma se i giovani si abituassero a questa gioia dell'emozione e della parola, perché la parola è ciò che connota l'emozione, se io non conosco le parole, i nomi delle emozioni non le so trattare, e siccome i giovani hanno perso quintali di parole, una statistica del 76 diceva che un giovane di quinto ginnasio conosceva 1500 parole, ripetuta l'indagine del 96 ne conosceva solo 600, se mi mancano le parole, mi mancano i pensieri, se mi mancano i pensieri, ditemi un po' come elaboro le emozioni. A questo proposito vi dico che cosa ho fatto a casa mia questa settimana, sempre nella preparazione della trasmissione. Io ho preso il CD di Roberto Vecchioni, ho scelto una canzone che si chiama Il violinista sul tetto e l'ho fatta ascoltare a mio figlio Jacopo, che ha 7 anni, e la canzone è bellissima perché è la storia di questo figlio che in qualche modo dice a sua mamma: vorrei fare tante cose nella vita, magari farò il soldato, magari farò il frate confessore, magari farò questo, magari farò quello, e poi alla fine invece decide che fa il violinista che suona sul tetto. Questo forse è il suo destino. Questa canzone molto anche proprio è cantata insieme a Teresa Dessio, ha una musica splendida, ha così colpito il mio bambino che ha dovuto fermarsi proprio sulla storia e sulle parole. E questo è il passaggio successivo che ha fatto. Mi ha chiesto di prendere il libretto del CD, ha voluto riascoltarla seguendo parola per parola quello che c'era nella canzone, e poi ha voluto riascoltarla mettendo giù il libretto del CD e provando a ripensare a quelle parole dentro di lui. Secondo me è stato uno straordinario esempio di cosa vuol dire che davvero bisogna in qualche modo dare stimoli emozionanti che accendano storie, pensieri, emozioni molto, molto presto nella vita dei nostri figli, e se glieli mettiamo a disposizione poi loro in qualche modo fanno i percorsi che vogliono. Roberto, hai avuto il commento della tua poesia dal professor Galimberti. Un bambino quasi prodigio che, devo dire, educato ad emozioni, perché a casa di Alberto Pellai, insomma, si lavora molto, i bambini sono molto impegnati. Io sono, che sono una tua fan, devo dire che sono felicissima, perché... Io sono felice di questa bellissima perorazione che ha fatto il professore sulle parole. Alberto. Credo l'ultima domanda per voi, ma la ritengo fondamentale. Cioè, vorrei chiedere a Galimberti qual è il ruolo dell'intellettuale in questo momento nella nostra società. Vorrei chiedere a Vecchioni qual è il ruolo dell'artista, e se davvero quel vuoto, quell'ospite inquietante che a volte abita la vita dei nostri figli, non sia il risultato di falsi intellettuali e di falsi artisti che abbiamo messo nel loro mondo. Partirei dal professor Galimberti. Qual è il ruolo dell'intellettuale? Pellai, hai perfettamente ragione. Il problema è questo, che gli intellettuali sono autoreferenziali. Quando parlano, parlano tra di loro, parlano per sapere la reazione dell'altro intellettuale, non parlano al mondo. Se poi qualcuno di loro si mette a parlare al mondo, allora dicono che non è più un intellettuale ma semplicemente un giornalista. Allora bisogna avere le spalle grosse, e l'intellettuale, per quello che ha studiato, quello è semplicemente uno strumentario con cui deve parlare al mondo. E naturalmente si deve beccare tutte le critiche da parte degli intellettuali raffinati, Bene, allora, o l'intellettuale si impegna a parlare con il mondo attraverso lo strumentario che si è fatto, oppure un intellettuale semplicemente inutile, i suoi pensieri sono pensieri che non servono, pensieri che non educano, pensieri che non commuovono. E Roberto, invece, qual è il ruolo dell'artista? Fa il paio, rispondo con una frase di Fortini che io adoro. Un giorno che il padre gli chiese, lui rispose in poesia al padre, il padre gli chiese: ma tutta questa poesia salverà il mondo? E Fortini gli rispose: no, non può salvare il mondo. E allora perché continui a scriverla? Perché devo farlo. Ed è un po' il motto, il famoso riferimento alla caverna chiusa del racconto di Kafka. Il guardiano ci sta davanti, l'uomo tenta per milioni di anni di entrarci, lui non lo fa mai entrare, e poi alla fine chiude la caverna e gli dice quasi ironicamente: eri l'unico che poteva passare, adesso chiude, non potrai passare mai più. Noi dobbiamo continuare a farlo, continuare a scrivere e a pensare. Ma credo che in realtà rimane sempre questo fondamento, che per poter vivere bene la tua dimensione fenomenologica, cioè quello che sei fuori di te, è fondamentale aver fatto un viaggio anche dentro di te. Credo che poi alla fine la parola chiave, secondo me, è la parola consapevolezza, ed è quella parola che Galimberti, annichilito, non trovava in nessun modo negli autori dei gesti estremi. Tra l'altro lui nel libro proprio racconta questo incontro sconvolgente con un ragazzo dei Sassi del Cavalcavia, e riporta più volte la frase del PM che lo ha seguito, che dice: non c'è dentro niente alla testa. E direi che rimane una riflessione importante da tenerci come genitori, come educatori, a contatto con i nostri figli o con i nostri studenti. Salutiamo il professor Galimberti, ringraziandolo davvero per essere stato con noi. Grazie. Roberto, un abbraccio speciale. Grazie a voi. Questa casa non è un albergo. E siamo tornati insieme per parlare di vandalismo. È un problema che ci tocca, che a noi genitori preoccupa molto, ma come spesso succede, siamo portati a credere che sia sempre un problema dei figli degli altri. Quando preparavamo la trasmissione, concretamente ci dicevamo che davvero molti genitori, molte mamme e papà magari ignorano completamente che un figlio potrebbe essere coinvolto in azioni vandaliche semplicemente perché avvengono fuori di casa e non sotto l'occhio degli adulti di riferimento. In linea con noi abbiamo la dottoressa Deanna Marescotti, che è psicologa di Promeco. Promeco è un'associazione che in Romagna lavora per prevenire, no, limitare, rieducare, anche si interessa di bullismo. Dottoressa, innanzitutto buongiorno. Buongiorno. Lei come la vede, dottoressa? Ma io mi occupo sicuramente nel contesto di queste tematiche di ragazzi, ma soprattutto delle loro famiglie, quindi della formazione degli adulti rispetto al problema. Come lei diceva, insomma, l'atto vandalico, l'atto di bullismo, a volte, non so, i disegni scritti dove non si dovrebbero, insomma, il margine di demarcazione è veramente un margine molto sottile, e comunque il denominatore comune è un bisogno di fare qualche cosa e la decisione o la non capacità di seguire alcune regole. A volte sembra proprio loro non le conoscano. I ragazzi magari in questa formula esprimono un disagio, d'altro canto anche i ragazzi non hanno spazi in cui esprimersi. Io penso che la situazione sia ben diversa. A volte abbiamo proprio vediamo sotto gli occhi il ragazzo che non ha rispetto di quello che ha davanti, no? Perché imbrattare una statua non è una forma di arte. Allora mi chiedo, sono tutti ragazzi che hanno disagi, o sono, come spesso accade, no? Nelle famiglie, noi famiglie che non riusciamo a dare dei limiti ai nostri ragazzi, no? Che magari partono da delle regole quotidiane, che possono essere quella di non scarabocchiare la scrivania in cui scrivono facendo i compiti. Quando parliamo di disagio, il termine è ampio. Un ragazzino che ha 12, 13, 14, 15 anni, che non conosce e che quindi non ha introiettato la necessità di seguire certe regole, addirittura l'automatismo di seguire certe regole, è a disagio perché mette in atto comportamenti non adeguati alla sua età, è sì. quella che dovrebbe essere l'evoluzione naturale di un 14enne, di un 15enne. Poi certo ci sono forme di disagio anche peggiori, cioè anche più gravi, ma l'educazione, la formazione, quindi gli adulti che stanno attorno a questo, all'adolescente, al ragazzo, hanno in toto la responsabilità di questi comportamenti. C'è un'altra situazione che vorrei approfondire, su cui voi avete lavorato, che è quando i ragazzi, per esempio, distruggono, vandalizzano. Io sono un viaggiatore sui treni, tutti i giorni vengo a Milano col treno e davvero i treni su cui viaggiamo, se, al di là di un discorso sì, di igiene o di pulizia, spesso sono, per esempio, io oggi viaggiavo in treno e dal mio finestrino non potevo vedere niente perché il finestrino era stato completamente coperto da vernici colorate. Allora vorrei chiedere a Beatrice Rovigatti, che proprio nell'ambito delle vostre attività ha viaggiato sui treni e in particolare sulla linea Codigoro-Ferrara e ha con l'obiettivo di vedere cosa succedeva e poi fare prevenzione del vandalismo, che cosa ha osservato? Cioè, perché in un luogo così neutro i ragazzi hanno voglia di vandalizzare, rovinare, distruggere? Ecco, prima di tutto la salutiamo, la dottoressa Rovigatti, che è in linea con noi. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno, grazie. Il discorso sul treno nasce proprio su una committenza che è stata data al nostro servizio, occupandoci da anni di queste tematiche, soprattutto di bullismo, ma ci è stato chiesto di intervenire proprio dalle ferrovie dell'Emilia Romagna su una tratta particolare, sì. che è una tratta che viene utilizzata da studenti pendolari adolescenti, perché più di altre questo tipo di linea presentava problemi di vandalismo e di bullismo, sì. più di altre, questo per dire che è abbastanza diffuso, come prima il collega appunto stava riportando, che un po' su tutti i treni si notano questo tipo di atteggiamenti, in questa linea soprattutto perché è un treno attraversato da 100, che è utilizzato da 150 studenti da 14 a 18 anni, per cui ci siamo stati proprio chiamati a progettare e durante l'analisi di sfondo che abbiamo un po' realizzato, chiaramente abbiamo fatto gli osservatori passivi, effettivamente sono ragazzi che quindi diciamo, osservatori passivi vuol dire che voi siete saliti sul treno, come si dice, no, con barba, baffi e cappello, e avete guardato che cosa facevano questi ragazzi. Siamo seduti come normali adulti viaggiatori, ecco. E quindi abbiamo cercato di osservare e di capire. E sicuramente ci sono, su 150 ragazzi, dobbiamo anche pensare che ragazzi insieme, ci sono poche presenze di adulti in questa linea, e quindi sicuramente questo non può che facilitare e rendere una zona franca. Certo, perché poi il gruppo aiuta in questo sì. senso, no? Perché diciamo che potenzia, certo. Alcune dinamiche vengono svolte, soprattutto si attivano nel gruppo e magari a casa sono ragazzi singolarmente che all'interno delle famiglie non presentano nessun tipo di atteggiamento, voglio dire, né distruttivo né aggressivo né, sì. né trasgressivo. Però poi tra questi 150 ragazzi chiaramente ci sono delle distinzioni, come si diceva probabilmente anche prima, le trasgressioni si partono da un minimo di trasgressione a atteggiamenti che hanno a che fare anche con la delinquenza. Ma certo, ma dottoressa Rovigatti, quindi dopo averli osservati li avete anche avvicinati, no, questi ragazzi? Come si... ma cosa dice un ragazzo preso, come si dice, in castagna? E l'approccio che abbiamo utilizzato, chiaramente i ragazzi si giustificano del tipo? Un adulto che fa notare un certo tipo di atteggiamento, ma non sono stato io, ma è stato lui, ma no, ma stavamo scherzando, per farla un po' breve, no? E poi dopodiché il passaggio successivo è capire che tipo di autorevolezza loro sentono con la presenza di questo adulto, per cui se è il capotreno che fa notare o fa la multa, chiaramente loro abbassano lo sguardo, ma è un'azione che poi dura due minuti. Sì. E noi quello che il progetto in realtà, l'obiettivo del progetto in realtà invece è creare una relazione, cercare di far ritornare un equilibrio sulle relazioni tra i ragazzi principalmente. E successivamente chiaramente intervenire anche sui comportamenti. Dopo, senta, però, ma per scendere dalla teoria alla pratica, dottoressa Rovigatti, questo lo immaginiamo, no? Che siete saliti sul treno per cercare di risolvere la situazione, ma come sta andando e che cosa fate in sostanza? Le attività che facciamo sono attività che apparentemente possono sembrare attività di animazione, quindi anche per occupare il tempo, un'ora di pendolarismo, diciamo, ma in realtà sono tutte finalizzate a smontare quelli che sono i codici delle trasgressioni. Faccio sì. un esempio così ci capiamo. Sì, grazie. La timbratura, che può essere un atteggiamento che che riprende un po' dal nonnismo, no? Timbra i ragazzi più giovani, noi l'abbiamo trasformata in attività di chi timbra chi e diventa lo stesso tipo di attività, però giocosa, senza prevaricazione, togliendo quelli che sono i codici, questo per quanto riguarda il bullismo, per fare un esempio. Per quanto riguarda il vandalismo, chiaramente il riconoscimento del danno, il problematizzare quello che è successo e far sì che ci siano anche delle conseguenze delle azioni, questo non può far sì che rendere un po' oggettivo il loro comportamento, che tante volte è davvero un atteggiamento dato così per il divertimento, per la trasgressione, per dare un po' noia. Per far ridere magari il compagno, per dimostrargli, no? Soprattutto per sfidare l'adulto che magari in quel contesto ha un ruolo di controllo, in questo caso stiamo parlando degli operatori che lavorano sul treno e controllori. E quindi questo, responsabilizzarli, fare riflettere, cercare di rendere concreto. È soddisfatta, dottoressa, del suo lavoro? State andando bene, benino? Molto. Alberto, voleva intervenire. Sì, siccome è la seconda volta che sentiamo un po' anche il valore del rendere oggettivo il danno che è stato causato mettendo sanzioni e dando punizioni, volevo chiedere alla dottoressa Marescotti se effettivamente questo rimane un aspetto importante, cioè pur essendo affettivi, vicini, relazionali con questi ragazzi, rimane che se sbagli paghi e quindi ci vuole un adulto competente, vicino, ma anche molto regolatore, cioè dice questa è la regola, non l'hai rispettata e allora a questo punto mi devi rimborsare il danno. Serve questo? È assolutamente indispensabile, perché quel comportamento dietro quel disagio oppure quel disagio è anche la somma di non ho introiettato le regole, non ho il senso della realtà, non conosco le conseguenze delle mie azioni, quindi anche una scarsa conoscenza della realtà nel senso proprio complessivo del termine. Sì. E poi sempre, voglio dire, l'azione educativa va su due binari, no? la parte affettiva, relazionale, motivazionale, con la parte di indirizzo, che è quella valoriale, che è quella delle regole. Quindi per tradurre questo discorso un po' da addetti ai lavori, no? Io ti voglio tanto bene, ti riconosco, so quello che vali, conosco le tue risorse, ti dico quali sono le regole importanti, ti dico anche quali sono le sanzioni se non le segui, e se non le segui non c'è mai una comprensione nella direzione di passiamo oltre, passiamo sopra. Perché ti voglio bene. Tu affronti la conseguenza della tua azione, quindi paghi. Allora, voi che siete esperti, quali sono i segnali che a me come genitore possono farmi un po' rizzare le orecchie e dire ma mio figlio non sarà mica uno di quelli che va... Perché sono tutti, no, i figli sono pezze core e noi magari abbiamo un po' gli occhi foderati di fette di prosciutto. Dottoressa Marescotti, che cosa ci dovrebbe insospettire per una seconda vita del nostro ragazzo? Voglio dire, non necessariamente ci sono dei segnali così eclatanti. No, ma ecco, segnali che può vedere uno con l'occhio lungo, come lei, ecco, insomma. Con l'occhio, l'unica cosa è che ci può permettere è avere una discreta relazione, perché loro raccontano in realtà le cose che fanno se solo si fidano. Altrimenti è molto difficile, soprattutto quando appunto a casa sono abbastanza bravi. Ora, se il disagio è abbastanza interessante, io ritengo che a casa i segnali ci sono, non imbratterà i muri, però reattivo alle regole, arriva in ritardo, non mette in ordine, non prepara, voglio dire che sono delle piccole cose. E queste che volevo sapere. Però significative, molto spesso i genitori non danno il giusto valore, il giusto peso a questi comportamenti. Il contatto e un regolare contatto con la scuola è l'altra possibilità, ma alcuni genitori si recano a scuola quando va bene due volte all'anno per il ritiro della pagella e nemmeno. Allora i segnali loro li danno, e spesso è proprio quando si sentono soli, quando non si sentono visti e riconosciuti dai genitori, che mettono in atto i comportamenti progressivamente sempre più vistosi. Allora Alberto, salutiamo la dottoressa Rovigatti e la dottoressa Marescotti, ringraziandole per essere state in nostra compagnia. Questa casa non è un albergo. Ecco Alberto, siamo tornati. Io vorrei che tu mettessi un po' un cappello da cuoco. Ce l'ho e sappi che in casa è uno degli oggetti più contesi tra i miei quattro figli. Se lo vogliono mettere tutti in testa. E c'è il Pietro che a volte lo mette in testa alla Caterina che ha solo 10 mesi. Perché basta tante volte un cappello e un bel grembiulone per sentirsi subito dei cuochi, e dei devo creativi. Dire a tutti i genitori: fotografate i vostri figli almeno una volta prima dei 5 anni con in testa un cappello da cuoco, perché è una delle foto più belle che potete poi conservare nel vostro album di famiglia. Però adesso noi passiamo dalla teoria alla pratica, perché entriamo nello spazio del nostro laboratorio settimanale, parliamo di cucina e lo facciamo insieme a Federica Buglioni, che è autrice di In cucina con mamma e papà, gustose esperienze tra i sapori mediterranei per genitori e figli, che è stato appena pubblicato dalle edizioni San Paolo. Buongiorno! Buongiorno a voi. Mi viene già l'acquolina in bocca e mi viene già da ridere, perché portare i bambini in cucina è veramente uno spasso. Se uno chiude un occhio su come poi viene conciata la cucina, farina, uova per terra, insomma, poi ce ne sono un po' di tutti i colori, ma insomma la fatica vale sicuramente questa esperienza. Guardi, mi sento di contraddirla un pochino, perché nella mia esperienza i bambini in cucina fanno molti meno pasticci di quello che i genitori immaginano. Di quello che fa ad esempio Alberto, perché lei i bambini li educa sin da quando sono piccoli a destreggiarsi tra pentole, pentoline, farina, bilance. A questo proposito dico che Federica Buglioni è proprio responsabile di un'associazione che si chiama Bambini in Cucina. Ci aiuta a capire che affinità esiste tra i bambini e l'ambiente della cucina? Ma io ho cominciato a occuparmi di questa cosa per sopravvivenza, nel senso che volevo trovare qualcosa da far fare a mio figlio quando lui scalpitava e non sapeva cosa fare. E ho scoperto che in cucina c'è più o meno tutto quello che a un bambino interessa. C'è l'acqua, ci sono i profumi, ci sono tante cose da toccare, ci sono utensili manuali, c'è la trasformazione dei cibi che nell'infanzia sembra quasi una magia. Insomma, la cucina è un laboratorio, un vero laboratorio che ogni genitore ha a disposizione a un costo irrisorio, quindi davvero alla portata di tutti. E poi soprattutto c'è la cultura familiare. I racconti, i ricordi, quel cibo che è fatto non solo di gusto ma anche di affetti. Sì, io ho sempre cucinato con le mie bambine e con le amiche delle mie bambine, amiche e amici, abbiamo sempre fatto delle buone ricette. Devo dire che abbiamo qualche volta anche inventato delle ricette nuove che adesso continuiamo a portarci dietro nel tempo, ricette magari senza fuoco, perché all'inizio erano piccole quindi volevo tenerle assolutamente lontano dai fornelli, ma insomma di bocca in bocca, di mano in pasta in mano in pasta si inventano sempre delle nuove combinazioni che entrano poi in quel libro di ricette che ogni famiglia tiene ben caro. Io vorrei però andare subito in cucina con lei e suggerire quindi delle ricette per bambini piccoli e meno piccoli. Sì, io ho preparato per voi 3 proposte diverse a seconda dell'età dei bambini. Sì. Resta vero che ci sono bambini molto piccoli e molto abili e bambini invece grandicelli che hanno bisogno di più tempo e più pazienza, ma con le ovvie generalizzazioni diciamo che per i più piccoli, questo intendo dal seggiolone fino alla prima elementare, i bambini sono molto molto interessati agli utensili manuali. Sì. E ne sono affascinati, bisogna cercare di privilegiare gli utensili, ovviamente non elettrici, quelli sicuri. Se vogliamo una preparazione dolce possiamo fare lo yogurt con la frutta, cioè tagliare la frutta a pezzettini, il bambino può lavarla, può tagliarla, può scegliere anche lui la frutta che gli piace di più, che ha i colori che gli piacciono di più, cercando noi di magari di stimolare i loro sensi, di farli a non solo scegliere con gli occhi ma anche con l'olfatto. E tagliarla a pezzettini e aggiungere lo yogurt bianco, cioè quello che io chiamo lo yogurt vero, e scoprire che anche loro sono abili, sanno fare lo yogurt alla frutta loro con le loro mani e possono prepararlo per una colazione o per una merenda. Saliamo d'età, un compito un pochino più impegnativo? Un compito un pochino più impegnativo, ma adesso io volevo un attimo invitare a un'attività fuori dalla cucina. Con i bambini della scuola primaria si scopre che il cibo viene dalla natura, quindi che il mondo del cibo e il mondo della cucina non è chiuso nelle quattro mura della cucina. Adesso che è estate, con i nostri bambini più grandi, possiamo cercare l'occasione per fargli scoprire questa relazione fra cibo e natura, che per i bambini è meno ovvia di quanto noi crediamo. E quindi andare con loro, non so, a raccogliere frutti selvatici in montagna o al mare o in campagna, e possiamo portarli a pescare, possiamo partecipare a degli itinerari guidati per imparare appunto a riconoscere piante selvatiche, andare a una battuta di pesca in mare. O per esempio tutti i parchi nazionali, regionali, eccetera, organizzano gite di questo tipo anche per i bambini, che sono per loro delle esperienze davvero indimenticabili. E poi quello che si è raccolto si porta in cucina e si prepara insieme. Posso dire, a conferma di quello che dice Federica Buglioni, che uno dei divertimenti assoluti della famiglia Pellai tra il 10 e il 20 di agosto, è proprio questo l'intervallo di tempo per noi che viviamo vicino alla brughiera, è andare in alcuni tratti di boschi che conosciamo molto bene, dove ci sono tantissimi roveti con frutti di bosco, more e more selvatiche in particolare, fare man bassa di queste more, riempiamo davvero un sacco di cestini e poi tornare a casa e preparare marmellata e crostata. E tra l'altro raccogliere frutti di bosco è un ottimo esercizio, perché i bambini devono fare molta attenzione a non farsi male, a non pungersi le dita e a rispettare anche le piante, e soprattutto devono imparare a riconoscere il frutto maturo dal frutto non maturo, che chiaramente non è di nessuna bontà, e c'è solo un piccolo effetto collaterale che mentre raccolgono vogliono mangiare come dei matti, quindi dobbiamo per ore di raccolta, poi alla fine rimane a volte giusto una scatolina per fare una crostata di marmellata. Allora, siamo andati con Alberto a raccogliere frutti di bosco, e adesso mi sembra molto interessante l'idea di portare, prima di metterli in cucina, di portarli fuori e proprio a procurarci le materie prime, e poi si possono, se qualche frutto di bosco è avanzato, si può pensare a realizzare magari un dolce. O una marmellata, se siamo riusciti a resistere e non mangiarle tutte, possiamo realizzare assieme ai nostri genitori, perché poi il bello è fare le cose assieme. Il bambino può lavare la frutta, se danno fastidio in bocca i piccoli semini la possiamo passare o centrifugare, e poi insieme ai genitori realizzare una marmellata, che è semplicemente zucchero e frutta e zucchero, sì. In che proporzioni le mette? Ma allora, e quale zucchero la usa? La marmellata dura pochissimo, sì. Quindi si può mettere poco zucchero, perché in realtà l'idea di fare le conserve per l'inverno non ce l'abbiamo mai fatta, le nostre marmellate durano poco. E tra l'altro vendono anche al supermercato uno zucchero con la pectina, che è un ingrediente assolutamente naturale, che serve, diciamo, per addensare, ed è anche un po' un conservante naturale, però adesso, per non aprire il lungo discorso delle conserve, insomma, facciamo per un consumo breve e al limite teniamo tutto in frigorifero, e così siamo sicuri che anche l'igiene è garantito. Assolutamente. Ha un'idea per i nostri preadolescenti o adolescenti? Li portiamo anche loro in cucina? Allora, per i ragazzi, quello che io vedo è che i ragazzi anche attraverso il cibo hanno bisogno di scoprire il mondo, scoprire quello che c'è fuori casa. E quindi un consiglio ai genitori è quello di non sentirsi offesi quando i ragazzi sono alla ricerca di sapori nuovi, ma magari sentirli come uno stimolo anche per noi, per scrollarci di dosso un po' delle vecchie abitudini. I ragazzi, per esempio, alcuni sono interessati alla cucina di altri paesi. Questa è un'occasione d'oro per andare per usare la verdura e i legumi, che in tante cucine esotiche sono abbondanti, e quindi di passare come effetto collaterale un po' di cibo sano. Oppure, ancora meglio, insegniamo ai ragazzi a preparare delle cose che poi possono fare da soli con i loro amici e conquistare qualche piccola autonomia. Un esempio, in una grossa teglia tagliamo a pezzi, e questo possono fare i ragazzi tutto da sole, patate, cipolle e una bella salsiccia fresca profumata, bucherellata, aggiungiamo solo un po' d'olio e inforniamo. E il piatto è un piatto povero, semplice, gustosissimo, che darà ai ragazzi una grande soddisfazione il giorno che manderanno mamma e papà fuori casa per invitare gli amici. Almeno mettono qualcosa sotto i denti. Volevo approfittare di lei per parlare anche di decorazioni. I bambini si divertono molto magari a decorare insieme a noi le torte. I bambini si divertono a decorare le torte, una cosa semplicissima da fare con i bambini, naturalmente col nostro aiuto, è semplicemente quello di sciogliere a bagnomaria un po' di cioccolato. Io ho visto che il cioccolato fondente funziona molto bene con i bambini perché compensa bene il dolce della torta ed è una cosa che alla fine i bambini gradiscono diversamente da quello che noi crediamo, e quindi se noi abbiamo l'accortezza di dar loro un po' di cioccolato fuso a bagnomaria, loro possono poi spalmarlo sopra qualsiasi biscotto casalingo, qualsiasi torta, e imparare in questo modo a glassare. Adesso io le chiedo un'ultima cosa che però è fondamentale per il benessere delle mamme e dei papà che portano i figli in cucina. Ci dia due o tre regole fondamentali che devono essere discusse e verificate, ecco, validate prima di entrare in cucina, affinché la cucina sia un luogo sicuro, divertente, in cui lavorare, in cui sia mamma che papà abbiano il piacere di stare insieme ai figli, e poi non ci sia appunto da lavorare un giorno per rimettere a posto tutto il disastro. Assolutamente. Allora, la prima cosa è fare cose semplici che richiedono pochi passaggi, e questo non vuol dire che le cose siano meno buone, ci sono tantissimi piatti semplicissimi. Cerchiamo di essere sempre ordinati e puliti. I bambini imparano da quello che facciamo, non da quello che diciamo, quindi diamo loro il buon esempio e a poco impareranno, non impareranno in un giorno solo. Assolutamente, è veramente un laboratorio in cui si preparano cose buone e sane, perché i nostri bambini, accompagnati a fare la spesa, scegliendo magari le materie prime e poi cucinando, imparano anche a mangiare meglio, Alberto. Questo sono assolutamente d'accordo, e credo, rispetto all'ultimo consiglio che ha dato Federica Buglioni, è durante l'anno molte volte noi siamo così pieni di fretta, abbiamo pochissimo tempo, che i bambini in cucina ci disturbano e ricevono da noi questo messaggio: stai lontano da me perché ho da fare in cucina. Approfittiamo perciò del tempo estivo per entrare in cucina rilassati, divertenti e divertiti, e coinvolgerli in una cosa che fa bene a loro e a noi. Allora, ringraziamo Federica Buglione per essere stata con noi, per i suoi consigli. Buona cucina, grazie, quindi. Grazie. Grazie mille, grazie a voi tutti. Grazie a lei. E noi ci risentiamo sabato prossimo. Intanto buona giornata da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.